Europa 24. Benvenuti a Europa 24 e un saluto da Livia Zancaner. Oggi parliamo di normativa anticorruzione. A settembre la Commissione Libe, Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni preparerà un nuovo dossier, un report di iniziativa legislativa concentrato sulla corruzione e la criminalità organizzata. Lo studio arriverà poi sul tavolo della Commissione Europea. La relatrice è Laura Ferrara, sentiamo di cosa si tratta. Si tratterà di fare un resoconto di ciò che è stato fatto nella passata legislatura dalla Commissione Speciale CRIM, che si era conclusa proprio con una risoluzione sulla corruzione e la criminalità organizzata, tesa a raccomandare alle istituzioni europee una serie di proposte legislative, alcune delle quali hanno trovato seguito ed altre invece sono ancora in attesa di essere, insomma, concretizzate. Per ciò che concerne nello specifico la lotta alla corruzione, ad oggi ad esempio si sta dibattendo sulla direttiva PIF, sulla protezione degli interessi finanziari. Il Parlamento europeo ha poi approvato un parere sul Public Prosecutor's Office europeo, così come la direttiva antiriciclaggio. Sono una serie di misure che dovrebbero cominciare a creare un sistema normativo europeo, si parla sempre di norme minime comuni tese all'armonizzazione tra tutti i 28 Stati membri della normativa in tema di corruzione e criminalità organizzata. All'interno di questi due temi saranno poi affrontate problematiche più specifiche, tra cui l'utilizzo dei fondi europei, come ovviare alle infiltrazioni della criminalità organizzata e così via. Una serie di idee di cui si discuterà a Bruxelles da settembre in poi con la ripresa dei lavori parlamentari. L'obiettivo è sollecitare la Commissione affinché proponga un approccio europeo di tutti questi temi. È assurdo, ma ad oggi a livello europeo manca ancora una definizione normativa del reato di criminalità organizzata, del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, e sappiamo che non sono problematiche circoscrivibili in ambito strettamente territoriale, non sono copie di singoli Stati membri, ma sono tematiche che necessitano di un approccio europeo. Una volta arrivate le raccomandazioni, spetterà al GRECO, il gruppo contro la corruzione, formato dagli Stati membri, dare le indicazioni a ogni Stato su ciò che deve fare per implementarle. La parte attuativa è infatti di competenza dei singoli paesi, aspetto su cui l'Italia presenta luci e ombre, come ci spiega Alessandro Musella, capo del team anticorruzione dello studio Bonelli Arede. Dal punto di vista della normativa, la nostra legislazione anticorruzione, sebbene non perfetta, con l'ultima legge del 2015 e con quelle, gli interventi della legge del 2012, la 190, è una delle più rigorose e complete al mondo. Rimane il fatto che il nostro paese rimane ancora in coda alle famose classifiche internazionali sulla corruzione. Per l'esperto la soluzione è concentrarsi sull'attuazione concreta delle norme. La strategia dovrebbe essere a 360 gradi e i 360 gradi quando si parla di corruzione sono senza dubbio la prevenzione, un'attività che oggi è affidata all'ANAC, poi la semplificazione e la riorganizzazione dell'amministrazione pubblica e dei contratti pubblici. Presto avremo il nuovo codice dei contratti pubblici che recepirà le direttive europee in materia e introdurrà una notevole semplificazione, affidando proprio all'ANAC, l'autorità anticorruzione, un ruolo fondamentale nell'attuazione poi di questa normativa. Poi si potrebbe lavorare sulla capacità di scoprire in modo più tempestivo e organico i fenomeni di corruzione, la capacità di intelligence contro la corruzione. Abbiamo grandi masse di dati anche a seguito delle norme sulla trasparenza, ma non abbiamo una significativa capacità di analisi di questi dati. E poi il whistleblowing, un sistema a livello nazionale a cui tutti i dipendenti pubblici ma anche i privati cittadini possano rivolgersi per denunciare situazioni di corruzione. Ovviamente anche le imprese dovranno fare la loro parte. Ed è tutto quindi per questa edizione di Europa 24. Ancora un saluto da Livia Zancaner. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.